Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come ogni mattina, alcune informazioni di servizio abbastanza rapide ma utili per tutte. La prima è quella relativa al nostro sito radio24.it. All'interno del sito potrete scaricare le puntate pressoché in tempo reale della mia trasmissione, ma anche di tutte le trasmissioni dei colleghi di Radio 24. E se andrete a vedere il mio profilo, troverete il blog Guardie o Ladri, lo conoscete, lo trovate anche sull'home page del Sole 24 Ore. La seconda informazione di servizio riguarda la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Stanno arrivando anche molti fax in redazione. Io vi invito a seguire la strada delle mail perché è quella più semplice per noi anche per colloquiare con voi e con le controparti. Allora, sul Gazzettino di Venezia del 13 marzo 2010, a pagina 16, lo dico perché per gli amanti dei giornali, in qualunque meroteca potrete andare a trovare il caso che oggi affrontiamo, leggo una intervista, è un servizio che francamente mi ha lasciato un po' perplesso, mi ha sconvolto sotto alcuni punti di vista. Parliamo di abusi da internet, ma parliamo di una cosa molto particolare. Vi leggo il titolo del Gazzettino. 18 anni, niente sesso, l'allarme degli andrologi, così internet uccide il desiderio. E via con le cifre di questo studio secondo il quale l'8% dei ragazzi veneti soffre di anoressia sessuale, in buona sostanza una specie di apatia, un ma chi se ne frega del sesso, tradotto in termini volgari. La cosa è interessantissima e devo dire che è una delle prime volte forse che leggo con dovizia di particolari una ricerca del genere, ed è per questo che io ho chiamato a parlarne con noi il professor Carlo Foresta, andrologo dell'Università di Padova, autore proprio di questo studio. Buongiorno professor Foresta. Buongiorno a lei. Allora, io intanto direi di partire da un dato metodologico, cioè quante persone e quali persone avete messo sotto la lente. Ovviamente non mi interessa sapere nomi e cognomi, ma la tipologia dei ragazzi che voi avete analizzato. Noi da 5 anni stiamo portando avanti un progetto di prevenzione andrologica permanente, andando nelle scuole medie e superiori ed incontrando tutti quanti i diciottenni. Noi a questi ragazzi, oltre che a dare delle informazioni precise sulla metodologia della prevenzione delle problematiche andrologiche, malattie sessualmente trasmesse e fenomeni che possono portare all'infertilità come il criptorchidismo, il varicocele, prevenzione del tumore del testicolo con l'autopalpazione, noi illustriamo anche alcuni aspetti della sessualità che nei giovani, se in qualche modo turbati in qualche parte, possono poi determinare anche comportamenti da adulto non normali. Giusto. Ecco, quando noi completiamo questa parte, diciamo, illustrativa, sottoponiamo i nostri ragazzi ad un questionario anonimo molto dettagliato e sono circa 50 domande anonime, perché a noi non interessa il singolo, certo, ed interessa tutta quanta la popolazione. Il fenomeno. Ad oggi abbiamo avuto la possibilità di contattare oltre 2000 diciottenni, quindi un numero grosso. Ecco, ma è corretto il titolo del Gazzettino? Cioè, è veramente così? Internet è eccessivo. Ecco, no, allora appunto per questo, ecco, mi spieghi un po' questo internet uccide il desiderio. Ecco. Allora, le illustro cosa è emerso. Prego. Che il circa l'8% dei ragazzi da intervistati con il nostro questionario ha in qualche modo fatto intravedere una apatia della sessualità, cioè al sesso preferiscono altre forme di divertimento, di socializzazione, di affettività, l'amico, il gioco, la discoteca, eccetera eccetera. Ecco, ma è normale rispetto al passato? Questo è, come dire, in linea con gli studi precedenti fatti dagli... Ma non è in linea assolutamente, anche perché non era mai emerso. Non c'era stata mai un'attenzione a questo. Ma la cosa che maggiormente ha colpito noi è questo, è che questo 8% che noi abbiamo definito come affetto da anoressia sessuale, cioè con scarsa libido, non era rappresentato da giovani che avevano un'impostazione sociale di tipo severa, dettata da principi cattolici o morali molto forti, per cui era inibente la sessualità, ma erano ragazzi che avevano già avuto o esperienze sessuali molto giovanili o, anche senza esperienze sessuali, una esperienza di sessualità telematica molto accesa. Ecco, io qui proprio vorrei venire al ruolo di internet, perché appunto il Gazzettino, richiamando il vostro allarme, dice: internet uccide il desiderio. Ecco, questa francamente è una cosa che inquieta moltissimo, perché oggi internet uccide il desiderio sessuale, domani potrebbe uccidere qualunque, o forse già sta uccidendo qualunque tipo di desiderio, di emotività o di affettività del singolo. Cambia il concetto di amicizia telematica rispetto all'amicizia reale. Stiamo scoprendo nel sesso, diciamo, l'acqua calda, perché già adesso ci sono amici, diciamo, telematici, amici inesistenti, che in realtà danno delle sensazioni e delle emotività che forse sono addirittura più forti di quelle che poi in realtà si vivono, solo che non esistono, certo, che influenzano di molto il comportamento delle persone. Se poi noi ribaltiamo questo problema in un ragazzo di 14 o 15 anni che all'improvviso, attraverso internet, vive una o partecipa di una sessualità che è veramente senza limiti, si intuisce come all'inizio l'istinto possa essere assolutamente attratto da questa forma di sessualità, che però non viene portata a livello cerebrale, non viene vissuta emotivamente, ecco, fine a se stessa. Ecco, professor Foresta, vorrei chiederle questo. Lei è un andrologo, quindi non è uno psicologo, ma da quello che poi sono i suoi studi, i suoi contatti con gli altri suoi colleghi, professori di altre materie, secondo lei questo, come dire, soddisfazione in un certo senso del desiderio attraverso la sola visione di internet, poi da adulti può portare delle conseguenze nefaste, oppure una cosa che appunto nella crescita poi passa e la, come dire, la, il desiderio, le forme di desiderio si ritualizzano e tornano ad essere normali? Ma mancano esperienze di questo tipo, noi le stiamo vivendo adesso. Perché l'internet così libero, noi lo vediamo nei quattordicenni che oggi hanno 18 anni, quindi un qualcosa che risale a 4-5 anni fa, e proprio in questo periodo c'è stata un'evoluzione così importante di questo mezzo, chiamiamolo, di comunicazione così in senso, certo, lato. Certo. Quindi mancano le esperienze, ma io direi che è quasi un bene che ci sia una chiusura, diciamo, quasi istintiva ad una sessualità così fredda, così istintiva e basta. Assolutamente. Ecco, un'altra domanda vorrei farle. C'è differenza, avete notato una differenza fra gli uomini e le donne? Cioè, se c'è più una... Molto, ma le dico subito, ecco, che non è stato motivo di nostro studio, perché essendo noi andrologi ci siamo rivolti sostanzialmente agli uomini, certo. Quindi non abbiamo fatto lo stesso studio sulle donne, però a noi è sembrato interessante e importante lanciare questo segnale, perché non se n'è mai parlato al mondo di questo segnale, e io invito proprio gli esperti, gli psicologi, i sessuologi, ma anche i parenti a considerare questo aspetto che è nuovo e che può essere deviante, invece se incanalato nelle giuste proporzioni e nella sua giusta realtà diventa, come dire, una vita tranquilla e una vita che si sviluppa nel senso della normalità. Bene. Tu pensi alle attese che avevamo noi, che ormai siamo adulti, quando avevamo 15, 16, 17 anni, la prima simpatia, certo, il primo appuntamento, la prima carezza, rappresentavano, come dire, la conclusione di un insieme di sentimenti ed emozioni che sono molto forti, che oggi vengono, e che con internet vengono a mancare, oppure vengono fin troppo accelerate. Io ringrazio il professor Carlo Foresta dell'Università di Padova, è un andrologo, ha compiuto uno studio straordinario sul desiderio sessuale sessuale degli uomini, dei ragazzi, dei giovani. Quindi vi invito anche a visitare il sito dell'Università di Padova, e che chi fosse interessato può mettersi in contatto ovviamente con l'Università e con il professor Foresta. Dico grazie in regia a Filippo Aureggi, in studio ad Elisabetta Fusconi per la loro preziosa collaborazione. Vi auguro buona giornata e vi do appuntamento a domani.